cittadino italiano a cui non sono bastate le guerre mondiali, la resistenza dei partigiani, il 68, gli anni 70 e l'attuale crisi economica a fargli venire voglia di ribaltare radicalmente l'intero esistente, sembra che non interessa altro che avere grilli per la testa in questo periodo di elezioni. Al movimento anarchico italiano, che abbaia radicalismo in ogni dove, sono bastati 20 anni di inchieste ed arresti per mettergli la museruola ed un guinzaglio che lo tiene legato e tenuto sul marciapiede lontano dalla strada della rivolta. Intanto nei bordi delle strade i compagni detenuti, nei boschi e nelle selve coperti dal manto stellato e liberi dal guinzaglio delle lotte presentabili, quei pochi individui selvaggi che a suon di azione hanno aperto un sentiero che è sboccato in Grecia, Cile, Argentina, Messico, Indonesia, eccetera, eccetera. La federazione anarchica informale. Se volessi descrivere giusto con due righe quella che è stata la storia italiana dal dopoguerra in poi, si potrebbe riassumerla così: 40 anni per costruire qualcosa attraverso la resistenza e le lotte degli anni 70 e 20 anni per distruggere sono serviti a una generazione annichilita da reality show, quindi la televisione e i social network. Una società dove la priorità sono l'efficienza produttiva, la tecnologia, la competitività e la guerra tra poveri. Una popolazione che preferisce autoeliminarsi suicidandosi davanti alle famose cartelle di Equitalia o Gerit. Una popolazione violentata nel quotidiano non solo dallo Stato italiano, di conseguenza dalle mafie. Sarebbe un grandissimo errore differire le due cose. Ma soprattutto da un cane vestito di bianco che quotidianamente fa sentire la sua presenza attraverso messe e televisioni. Una popolazione messa in ginocchio dalla crisi economica e che ha come unico grillo per la testa quella di recarsi alle urne per votare un nuovo governo. Una popolazione che non si ribella a tutto ciò è un gregge guidato da un pastore di un pascolo preimpostato. Un pascolo di pochi metri dove le pecore si azzuffano tra loro per brucare un filo d'erba. Ai lati del pascolo i cani da guardia che salvaguardano i privilegi del pastore ributtando, anche solo attraverso un abbaio, quelle poche pecore che timidamente cercano di varcare la zona rossa. Il movimento anarchico italiano non differisce da tutto ciò, anzi ne è lo specchio. Ad annichilire il movimento anarchico sono i professorini o filosofi della rivoluzione, che alla pari dei Maya sembra che conoscono la data della fine del mondo o in questo caso di una fantomatica rivoluzione. Il gregge anarchico deve andare e tornare tutti insieme dal pascolo. Davanti adesso il pastore che gli indica la via. Ai lati del pascolo una barriera di libri e teoria dell'Ottocento che non permettono alle singole individualità del gregge di guardare oltre quel percorso preimpostato e quindi non gli permette di guardare in quelle selve, in quei boschi dove la pecora può diventare lupo. La debolezza del gregge viene intuita dallo Stato che approfitta per sferrare colpi a destra e manca. Solo negli ultimi 20 anni non si contano le inchieste da parte della magistratura italiana nei confronti degli anarchici. Non andando tantissimo lontano e indietro negli anni, partirei da 1995. Nel 1995 la Procura di Roma, capitanata da PM Antonio Marini e Franco Iotta, istruiscono a dovere una falsa pentita che dovrebbe conoscere i particolari del movimento anarchico e in particolare i compagni arrestati per una rapina in banca a Serravalle, Trento, provincia di Trento, in cui dice di aver partecipato anche lei. In fondo non ricorda nulla, nessun particolare, se non quello che papà Marini gli imbocca durante l'istruzione. Sicuramente l'inchiesta RAI, organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionalista, una sigla mai esistita se non nella mente malata del PM Marini, è una delle operazioni più grandi nei confronti degli anarchici italiani e non. 9 anni di processi per vedere sgretolare le prove granitiche di un magistrato che come unico risultato riesce ad ottenere solo un inasprimento delle condanne a carico dei compagni arrestati in precedenza per il sequestro di Silocchi più qualche altra condanna. Praticamente una miseria per chi aveva indagato quasi una settantina di compagni, di cui 29 arrestati. In questi anni in cui si svolge il cosiddetto processo Marini, altre inchieste da altrettante procure vengono aperte contro i compagni anarchici italiani. Nel 2004, appena dopo la Cassazione del processo Marini, riparte l'assalto feroce della magistratura. Tra fine aprile 2004 e per tutta l'estate dello stesso anno avvengono molti arresti e molte inchieste che tendono alla radicale distruzione di alcune realtà in quel momento molto attive nelle rotte sul territorio italiano. A Pisa viene colpito il circolo anarchico e silvestre. 9 arresti e 11 indagati per un'inchiesta contro le COR, cellule di offensiva rivoluzionaria, che nel giro di un anno avevano attaccato alcune sedi di partiti di destra e di centro-sinistra, i loro uomini, agenzie di lavoro interinali e un cantiere di una caserma dei carabinieri in costruzione. Tutto ciò avviene tra Pisa e provincia, dal 2003 al 2004. Nessuna inchiesta può lasciarci meravigliati, ma in questo caso accade qualcosa di molto strano. Le corrono hanno sempre parlato di comunismo, tribunali del popolo e dittatura del proletariato. Niente a che vedere con gli anarchici. Arresti avvengono anche ad Arezzo, Lecce, Genova e Catania. A Rovereto vengono arrestati 5 compagni per uno scontro con i fascisti di 2 anni prima. A Cagliari vengono arrestati 3 compagni e molti altri compagni perquisiti, tutti del circolo anarchico Fraria, che viene chiuso per circa 2 mesi. L'accusa per i 3 arrestati è quella di aver bruciato una sede di Forza Nuova in provincia di Cagliari. A fine luglio la procura di Roma fa scattare gli arresti per 4 compagni ed indaga circa una quarantina di compagni per quella che è la prima inchiesta contro la Federazione Anarchica Informale, la cosiddetta Operazione Cervantes. La Federazione Anarchica Informale rende nota la sua esistenza per la prima volta nel dicembre 2003 attraverso un documento che rivendica l'azione compiuta nei pressi della casa dell'ex premier Romano Prodi. Il documento di presentazione della Federazione Anarchica Informale è sottoscritto da alcune sigle che nell'ultimo anno avevano rivendicato una serie numerosa di attacchi alle strutture e uomini del potere. Le sigle sono Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini Occasionalmente Spettacolare, la Brigata 20 Luglio, Cellule contro il Capitale, il Carcere, i suoi carcerieri e le sue celle, Solidarietà Internazionale. Nel 2005 altre 2 operazioni portano all'arresto di 5 compagni. In un'inchiesta si pacchi bomba e l'attentato al tribunale di Viterbo. Gli arresti avvengono tra Viterbo e Pescara e riguardano per lo più i compagni che sono nella redazione di Croce Nera Anarchica. A Lecce altri 5 compagni arrestati e perquisizioni in altre città d'Italia. Per un'inchiesta si vari attacchi contro pompe di benzina, il Duomo di Lecce, la Benetton, i centri di permanenza temporanea. Nel 2006, a 2 mesi dalla fine del processo COR, in cui la Procura di Firenze e la PM Angela Pietro Iusti vedono sciogliere come neve al sole le loro accuse, ancora un'altra inchiesta e altri 11 arresti nei confronti dei compagni del Silvestre ed alcune individualità. Gli autori? La Procura di Firenze e la PM Angela Pietro Iusti. Da quel periodo ad oggi altre inchieste ed arresti hanno colpito il movimento anarchico italiano. Fino all'estate scorsa è iniziata con l'operazione Ardire, con i compagni arrestati solo per aver portato avanti un blog come culmine per scritti risalenti ad arresti precedenti dal carcere e la cosa più pericolosa, di aver portato solidarietà anche solo con le parole ai compagni detenuti per le CCF, Marco Kamenich e Gabriel Pombo da Silva, anch'essi indagati nella medesima inchiesta. Nel frattempo accade che il giorno 7 maggio del 2012 a Genova viene azzoppato l'amministratore delegato Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. A settembre tre compagni verranno indagati per questo azzoppamento, due di loro verranno arrestati, Alfredo Cospito e Nicola Gai. Ovviamente senza voler sminuire le dimensioni, nel mezzo ci sono state altre inchieste come la Shedov, la Mangiafuoco, quella contro il Notav e quella Yox di Dai. In 20 anni sono cambiati i nomi degli accusatori, ma in molte occasioni non quelli degli accusati. Se la magistratura voleva ottenere qualcosa da tutte queste indagini, ci è riuscita anche senza ottenere quelle che gli stava di più a cuore, le condanne, a parte il processo Marini e qualche altra inchiesta. Quello che ha ottenuto sicuramente è stata la continua spaccatura all'interno del movimento anarchico, arrivata puntuale ad ogni inchiesta. Questa non è un particolare irrilevante, anche se allo stesso modo, essendo il sottoscritto individualista, non penso sia di fondamentale importanza, anzi la reputo una ricchezza. Pensare ad un movimento tutto unito e che la pensa allo stesso modo mette un po' i brividi e puzza di teorie fasciste e comuniste. Di sicuro un po' l'ambiente anarchico è stato destabilizzato da tali fratture, che sono servite soltanto a tirar fuori dal cilindro ulteriori filosofi dell'insurrezione che attraverso il loro credo hanno deviato le menti dei compagni più giovani. Ma continuo a dire che laddove c'è bisogno di spaccarsi e dividersi bisogna farlo. Il motivo che si è tutti anarchici non è un pretesto per cui si debba collaborare tutti insieme. Siamo anarchici, non comunisti, e non dovrebbe appartenerci molto. L'unione fa la forza. Rispetto agli anni passati, in cui c'erano delle risposte agli attacchi che si ricevevano, ora prevale il silenzio ed in rare occasioni la dissociazione pubblica in rete. La seconda è da anni la cosa che più riesce a fare alla Federazione Anarchica Italiana, che come qualsiasi altra federazione anarchica di ogni paese non ha nulla a che vedere con i concetti e gli ideali anarchici. Statuti di comportamento e organizzazione interna verticistica sono le cose che di più saltano agli occhi per un anarchico e di cui ne vanno fiere le varie federazioni. Ma tralascio volutamente ogni discussione riguardante questi politicanti dell'anarchismo, perché dare importanza a loro è come dare importanza a qualsiasi partito politico. Parlavo del silenzio che per mesi ha caratterizzato il movimento anarchico italiano ed in particolar modo dopo gli arresti a settembre di Alfredo e Nicola. Un mezzo avviso c'era stato già l'indomani della rivendicazione dell'attacco da parte della Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale, la cosiddetta cellula Olga. A parte la solita dissociazione da parte della Federazione Anarchica Italiana, che ha voluto mettere in chiaro laddove ce ne fosse ancora bisogno di chiarirlo, che non era cosa loro quell'azione, rivendicando la proprietà dell'acronimo FAI, c'è stato anche qualcos'altro di simile da parte di qualche realtà di movimento che ha voluto precisare, mettendo i puntini su lei, che nulla avevano a che vedere con l'attacco. Sicuramente l'attacco ad Adinolfi è stato un passo in più rispetto alle tantissime altre azioni di attacchi ad uomini e strutture del potere. Era dai tempi di D'Antona e Biagi, ammazzati dalle nuove Brigate Rosse, che qualcuno non impugnava una pistola contro gli avvelenatori della vita quotidiana. Sicuramente è stata una cosa un po' inattesa dal movimento, specialmente da compagni più giovani, ma è stato, secondo il sottoscritto, anche un chiarimento diretto su quello che significa il binomio pensiero-azione. Non serve a nulla scrivere le minacce sui muri se poi al primo botto ci si meraviglia, ci si interroga e ci si dissocia. La solidarietà è un'arma e non una cosa scritta. Questo ha voluto dire, secondo il sottoscritto, l'attacco ad Adinolfi leggendo il testo di rivendicazione. In questo periodo però sembra che il silenzio stia morendo, anche se non totalmente. Iniziative sotto le carceri ed iniziative benefit si stanno susseguendo più frequentemente rispetto agli ultimi mesi. forse si inizia a capire che il silenzio è sinonimo di buon momento per la magistratura, che molto spesso affonda i suoi artigli proprio in certi periodi. Il silenzio o il direzionarsi verso quelle lotte più presentabili non servono a mettersi a riparo dagli attacchi dello Stato o, come si dice in Italia, a pararsi il culo, anche perché si è visto che basta una manifestazione contro il G8 di Genova, quella del 15 ottobre a Roma, o una qualsiasi contro la TAV per finire in galera con condanne pesanti o mesi e mesi di arresti cautelari. Non tratterò approfonditamente il tema TAV perché, se da un lato è una delle tante lotte che potrebbe interessarmi per una serie di motivi come l'inquinamento o la distruzione della natura, penso che sia un'immensa contraddizione dal momento che la stessa linea della TAV attraversa tre quarti dell'Italia. Non penso che la Val di Susa abbia più importanza rispetto ad altre zone violentate dagli interessi dello Stato capitale in materia di trasporto merci. Tantissimi interessi che sono anche quelli degli abitanti della Val di Susa, che stanno lottando insieme ad una parte del movimento anarchico, ma che in realtà difendono solamente i propri terreni e le loro proprietà, sbattendosene altamente che l'altro 99,9% del mondo viene distrutto quotidianamente da progetti simili alla TAV. Il movimento No TAV inizia a muoversi in Italia dopo l'estate del 1998, anno conosciuto meglio come quello del duplice omicidio di Stato. In quell'anno tre compagni, Edoardo Massari, Maria Soledad Rosas e Silvano Pellissero, vengono arrestati a Torino con l'accusa di appartenere al gruppo dei Lupi Grigi, autori di alcuni attacchi contro tralicci dell'alta tensione e cantieri dell'alta velocità TAV. Edo e Sole muoiono a distanza di 3 mesi l'uno dall'altro. Edo a marzo viene trovato impiccato nella cella del carcere delle Vallette a Torino, Sole a luglio nella comunità sotto i ponti in cui era stata trasferita per gli arresti domiciliari. Il primo campeggio in Val di Susa si svolge a settembre dello stesso anno. Non c'è molta affluenza, ma in particolar modo non c'è presenza da parte dei cittadini della valle, che ancora non avevano ben capito di cosa si trattasse in fondo il progetto Alta Velocità. Da 1998 ad oggi la mobilitazione No TAV ha avuto vari buchi, un po' come un capo di abbigliamento che va e viene di moda. In mezzo avvengono altri scenari come le manifestazioni di Napoli e Genova contro rispettivamente l'OCSE e il G8. Poi arriva il periodo dei centri di permanenza temporanea e subito dopo è nuovamente No TAV. Intanto la TAV ha già distrutto mezza Italia. Questa volta il movimento contro il treno veloce è molto più allargato. All'interno ci sono gli anarchici, i comunisti, le associazioni, l'ex area disobbediente, i cattolici, i protestanti, i sindaci e i politicanti della Val di Susa e di altre parti d'Italia e i cittadini della valle che finalmente hanno capito che quel piccolo tesoro di cui pensano di essere proprietari gli sta venendo sottratto. Non voglio buttare fango su questo tipo di lotta perché se alla fine ci sono stati anche degli arresti lo scorso anno, a gennaio del 2012, ma come dicevo prima non mi interessa minimamente entrare nello specifico della lotta per due motivi: non facendoci parte non posso fare un'analisi più approfondita, due, sono allergico alle lotte fatte da movimenti promiscui, per non parlare della presenza di politici e preti. Mi verrebbe da pensare che non cambia nulla, dato che all'interno di quel movimento ci sono anche politicanti e preti anarchici. Fortunatamente lo Stato italiano, come tutti gli stati mondiali, ha potuto solo distruggere ed inquinare le città, le montagne ed i boschi visibili sulle carte geografiche, ma non ha potuto e non potrà mai intaccare ed inquinare i boschi selvaggi delle lotte radicali. Quei boschi dove alcune individualità si sono incontrate nelle idee anche senza vedersi e senza conoscersi ed hanno iniziato a scavare il letto per un fiume che ora è in piena e che è sfociato in altri boschi del mondo come la Grecia, il Messico, l'Argentina, il Cile, l'Indonesia, eccetera, eccetera. Parlo ovviamente della Federazione Anarchica Informale, ma anche di tantissime altre individualità, anche, che anche se non fanno parte della FAI-FRI, Fronte Rivoluzionario Internazionale, agiscono in Italia e in tutto il mondo con le stesse modalità di attacco. Infine due parole su Radio Azione. Il progetto nasce poco più di un anno fa. All'inizio doveva essere un nuovo modo per riprendere quello che era stato fino al 2007 il progetto Edizioni Affinità. Tali edizioni comprendevano il periodico Affinità, periodico insurrezionalista e la pubblicazione di alcuni opuscoli. Tutto il ricavato del materiale stampato andava ai compagni detenuti. Radiazione era partita solo come dirette radio, mettendo l'annuncio ogni volta che si andava in onda su alcuni siti e blog più conosciuti. C'era una sola diretta a settimana e mani lo stesso giorno. Dopo poco ho pensato di non dare delega ad aprire il blog radioazione.noblogs.org, dove oltre agli appuntamenti radiofonici si potevano pubblicare gli argomenti affrontati e le notizie di controinformazione. Il blog non aveva all'inizio la pretesa di essere aggiornato nella quotidianità, perché comunque c'erano già altri siti e blog che lo facevano, non era una delega, anche perché ogni tanto si mandava qualche contributo scritto a quei siti e a quei blog. Però l'operazione Ardire ha stravolto totalmente i progetti di radioazione. Come si è ben capito, fin dal primo momento questa inchiesta con gli arresti di molti compagni aveva un obiettivo chiaro: mettere a tacere il blog Culmine, un blog che ha sempre mostrato la sua solidarietà ai compagni detenuti e ad alcune lotte. Radiazione non ha mai voluto sostituirsi a Culmine e non ci pensa nemmeno, ma da quel giugno del 2012 ha voluto dare un messaggio ai parruccati magistrati italiani: alla solidarietà non si mette il bavaglio. Quindi ho iniziato ad aggiornare blog nella quotidianità e le dirette radiofoniche sono diventate due, con giorni ed orari fissi. Prendendomi le mie proprie responsabilità ed escludendo a priori la partecipazione di qualsiasi altro compagno o compagna al progetto per la loro incolumità, attraverso Radiazione vengono pubblicate buona parte delle azioni dirette che avvengono nel mondo, senza mettere il cosiddetto cappello o introduzione all'inizio dei testi rivendicativi, o almeno si evita di farlo al 99,9%, e quell'1% è giusto per andare a precisare qualche punto in cui si è in disaccordo, ma mai criticando l'azione. Tutto ciò è parte della lotta anarchica, e perché bisogna che certe notizie non veicolano solo attraverso i media nazionali. A chi si occupa di blog, siti o giornali stampati va il compito di fare uscire fuori certe notizie, certi comunicati e certe rivendicazioni, dandole giusto significato e facendo capire che il terrorismo appartiene solamente agli stati e ai suoi uomini. Ma la cosa più importante per Radiazione è ancora un'altra: è quella di fare eco alle voci dei compagni che sono sequestrati nei lager di Stato di tutto il mondo e ai compagni colpiti dalla repressione in generale, ribadendo la propria solidarietà e in alcuni casi la propria complicità con loro. Non lasciamoli soli.